Europa 24. Benvenuti ad Europa 24, ribadiamo l'appello per un cessate il fuoco fra Israele e i territori palestinesi e per una de-escalation della situazione, per cui l'Unione Europea è pronta a fare tutto il necessario. A parlare così la portavoce dell'alto rappresentante UE Catherine Ashton. I leader dei 28 affronteranno la questione al vertice europeo che prenderà il via questa sera alle 20 e che dovrebbe adottare anche delle conclusioni. Il Parlamento Europeo ha dato il via libera ai quattro commissari ad interim che concluderanno a fine ottobre il mandato dell'attuale Commissione europea. Per l'Italia sarà l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci. E noi ci colleghiamo con Strasburgo e con il nostro inviato Gigi Donelli. Sì, Piero, buongiorno, saluto agli ascoltatori. Questa giornata in realtà devo anticiparvi una notizia. Pochi momenti fa qui nell'emiciclo di Strasburgo ho incontrato Cécile Kyenge, naturalmente ex ministro eurodeputato, che era agitata e ci ha raccontato di essere stata vittima di un attacco razzista in aula da parte di un deputato polacco dell'estrema destra. Insomma, per certi versi si riparte da dove ci eravamo lasciati, quindi con un Parlamento che si mette al lavoro e molti temi, tra cui questo, da affrontare seriamente. Come dicevi, appunto, Ferdinando Nelli Feroci è il nuovo commissario dell'industria, la sua nomina è stata approvata assieme a quella del polacco Dominik al bilancio, del finlandese Katainen all'economia, della lussemburghese Martin Reichert alla giustizia. I voti 421 a favore, 170 contrari, 32 astensioni. Come hai detto, Feroci prende il posto di Antonio Tajani, eletto eurodeputato, in attesa appunto della nuova Commissione Juncker. Tutto questo appunto in giornate che segnano l'inizio dei lavori, così Radio 24 rinnova anche con questi incontri che stiamo realizzando qui a Strasburgo con le nuove compagine dei deputati, vecchi e nuovi, e naturalmente con questo anche l'impegno a continuare a raccontare quello che accade in Europa attraverso la nostra rete. Adesso credo che la linea passi d'obbligo a Bruxelles, dove la giornata prosegue e altre nomine sono attese. A te la linea. Assolutamente, grazie al nostro inviato Gigi Donelli. La giornata proseguirà questa sera, come dicevamo, alle 20 con l'atteso vertice sulle nomine, vertice che però continua a slittare. Evidentemente non tutte le pedine sono state messe al loro posto. Sergio Nava. Sì, prossime ore decisive per riempire le caselle che contano nel puzzle delle nomine europee. La situazione è talmente complicata che è stato deciso, lo dicevi, uno slittamento dell'inizio del vertice di due ore per fare spazio ai numerosi bilaterali che precedono summit come questo ad alto tasso negoziale. A Roma occhi puntati su Federica Mogherini, sostenuta dal blocco dei leader socialisti dell'Unione, ma osteggiata da oltre una decina di paesi dell'est Europa, tra cui i tre baltici, che vedono nella Mogherini la rappresentante di un paese troppo accomodante con la Russia. Contro la Mogherini gioca anche la sua inesperienza. Oggi il settimanale tedesco Der Spiegel ha definito sconsiderata la politica di non avere volti forti per la posizione di rappresentante degli affari esteri. Anche il Wall Street Journal ha stroncato la candidatura della Mogherini, non ha leadership. Possibili alternative per la posizione sono la bulgara Georgieva e il polacco Sikorski. Incasellata la prima nomina, i 28 leader potrebbero tentare un'intesa sul nuovo presidente permanente dell'Eurogruppo, che vede in pole position lo spagnolo De Guindos, mentre sul nuovo presidente del Consiglio Europeo i negoziati sono in alto mare, favorita la premier danese Thorning Schmidt. Il premier Renzi è in ritardo nell'arrivo a Bruxelles, quasi certa la sua assenza al prevertice dei leader socialisti. Restiamo però sul summit, che vede nel menù anche possibili nuove sanzioni contro la Russia e la situazione in Medio Oriente. Oggi il presidente eletto della prossima Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, vedrà i suoi ex colleghi premier, per un primo scambio di vedute in vista del quinquennio alla guida dell'esecutivo comunitario. Sentiamo cosa ha detto Juncker ieri al circuito Euronet Plus. Dice Juncker, ripeterò ai leader europei i grandi assi del mio programma. La nostra priorità assoluta deve essere la crescita e l'impiego. Sulla nomina di più donne ai posti della Commissione europea, non mi chieda come li comincerò a nominarle, è già penoso dover convincere qualcuno a nominare una donna a una posizione di comando. È tutto. Grazie al nostro Sergio Nava. È tutto per Europa 24. Vi lascio a tutti convocati. Il GR24 invece torna alle 15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.